picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. Il settimanale di montagna di Radio Onda d'Urto. Quindicesima puntata di Picchi di Frequenza. Questa settimana il nostro viaggio tra storie e resistenze, alpinismo e trekking, va per un attimo in pausa perché dedichiamo lo spazio a nostra disposizione ad uno speciale sulla COP21, la 21esima conferenza sui cambiamenti climatici che si è appena conclusa a Parigi tra speranze e proteste. Non c'è neve sul tracciato, annullata la misurina Skyride. Belluno, Auronzo di Cadore, soffrono le montagne e soffre lo sci alpinismo per il prolungato anticiclone che non molla la presa sull'Italia. Lungo il tracciato della gara di sci alpinismo, valida come prima prova di Coppa Italia, trofeo scarpa, non c'è traccia di neve. Per questo la 14esima misurina Skyride, prevista per il 20 dicembre prossimo, è stata annullata. Il primo articolo di quest'oggi, che anticipa il tema dello speciale su cambiamenti climatici e COP21, è tratto da montagna.tv, mentre noi adesso voliamo su altitudini.it, dove abbiamo non tanto un posto, un contributo, ma segnaliamo una proposta di scrittura collettiva a più mani. Il titolo è La Volpe Curiosa, un esperimento di scrittura collettiva. Ci sono tre acquerelli a disposizione proposti da Silvia Benetollo e c'è l'idea di provare a lavorarci sopra per scrivere assieme una storia, quindi date un occhio perché sicuramente è un qualcosa di diverso dai contributi a cui siamo abituati anche in questa rubrica. Il terzo contributo, dal titolo L'inarrestabile deriva dei parchi italiani, è un must. Qualunque ascoltatore di Picchi di Frequenza deve andare su ediburg.it, il portale che da oltre 10 anni, promosso da Salzano, racconta l'urbanistica radicale di questo paese e che tenta un'escursione nella genesi, l'evoluzione e la parabola discendente della tutela dei parchi italiani, che è anche un racconto del territorio e della visione del territorio che abbiamo tra burocrazia, fondi che mancano alle comunità montane, smembramenti, mercificazione, e, insomma, è assolutamente, assolutamente da fare vostro. In ultimo, un divertismon che sta così un po' ai margini delle nostre consuete fonti per la rassegna stramba, che è tratto dall'ercio.it. Il titolo è Fa un viaggio in India per ritrovare se stesso e dopo 2000 km a piedi scopre di essere un coglione. Su questo si chiude la nostra rassegna stampa. Oggi, come anticipato, non ci saranno le consuete rubriche, non presentiamo storie di rifugio e di viaggi, ma parliamo di climate change all'indomani della COP21 di Parigi. La COP21, conferenza delle parti sui cambiamenti climatici, è il 21esimo meeting a partire dalla conferenza di Rio del 1992 con cui gli stati nazione aderenti all'ONU si confrontano per porre rimedio al tema del climate change, non soltanto un problema di surriscaldamento della terra che scotta, ma un problema di instabilità del clima che ha immediate conseguenze sul piano economico, sociale, ambientale e che in ogni caso appunto approfondisce la linea dell'iniquità sociale. In questi giorni siamo stati a Parigi, nella Parigi spaventata e toccata dagli attentati di Daesh del 13 novembre, che hanno fatto 130 morti per un odioso, più che curioso, scherzo del destino, lo stesso numero di morti che esattamente un mese prima, il 10 di ottobre, fece l'attentato di Ankara. E per questo motivo, insomma, in questa città che vive in stato di emergenza, con i venti di guerra che soffiano e con l'impossibilità di manifestare, insomma, di partecipare dal basso ai lavori della conferenza, volevamo così donare questa puntata, questa quindicesima puntata di Picchi di Frequenza, l'ultima dell'anno, al tema del clima. L'amore, la passione, la voglia di montagna e anche e anzitutto amore per il territorio, nelle sue affermazioni meravigliose ma anche nella sua cura di tutti i giorni. Per questo motivo oggi dedichiamo tutto lo spazio a nostra disposizione a raccontare che cosa è successo a Parigi tra il 29 novembre e il 12 dicembre nella cornice della COP21. L'accordo è pubblicato alle ore 20 del 12 dicembre. Il primo elemento rilevante è che per la prima volta tutti i paesi partecipanti, oltre 190, firmano la carta di oltre 35 pagine e autodichiarano a mezzo stampa il loro successo. L'accordo prevede margini e flessibilità per ignorare alcune delle decisioni prese, ma non prevede sanzioni per farle rispettare. E d'altronde le soluzioni promosse sono in buona parte economiche, finanziarie e tecnologiche, e quindi non hanno un carattere etico-politico, ma danno suggerimenti su quali siano le mosse da intraprendere per adattarsi ai cambiamenti, molto più che per combatterli. Ad ogni modo, il documento è articolato in 4 punti. Il primo, contenimento entro i 2 gradi Celsius dell'innalzamento globale della temperatura, con uno sforzo a mantenerla entro il grado e mezzo. Il secondo punto, porre un tetto ai gas serra che porti al picco di produzione degli stessi entro il 2050, quindi con un implicito stop successivamente ai combustibili fossili, e puntare alle emissioni zero entro la fine del secolo. Emissioni zero significa che i nostri impatti devono essere compatibili con la capacità del pianeta di riassorbirli anno per anno, ed è questo un obiettivo particolarmente ambizioso ma anche molto, molto fumoso. Il terzo punto, la convocazione ogni 5 anni di conferenze di controllo per valutare via via i successi ottenuti e gli ostacoli incontrati. Il quarto ed ultimo punto prevede lo stanziamento fino al 2025 di 100 miliardi di euro l'anno ai paesi in via di sviluppo attraverso appunto trasferimento tecnologico e per l'efficientamento energetico, quindi per far sì che anche i paesi ad industrializzazione più recente accelerino la loro rincorsa a forme di produzione, distribuzione e consumo che siano più compatibili con le esigenze del pianeta. Questo è quello che ha affermato la COP, ma prima di entrare nel merito delle critiche al meccanismo storico delle conferenze e delle proteste che anche in stato di emergenza si sono avute a Parigi, ascoltiamo un po' di musica. Like white right above the street. arco di sole 72 ore dagli attentati di Parigi è dichiarato lo stato d'urgenza, quello che noi tradurremmo con stato d'emergenza. La vita civile di un paese in pace è interrotta non soltanto dai venti di guerra, ma dall'impossibilità per ONG, movimenti, associazioni di partecipare al meeting, costruendo tutto ciò che sta al di fuori del momento istituzionale, a partire dalle proteste che erano previste. Giusto a titolo d'esempio, dal 23 al 27 novembre si sarebbero dovuti svolgere incontri sul tema dell'alimentazione, che seguono un po' l'appuntamento milanese dell'Expo. Il 28 novembre le ZAD concludono la loro marcia verso la città di Parigi. Il 29 era previsto il primo corteo con la piazza anticapitalista, dal 4 al 10 dicembre le manifestazioni di Blockupy e poi delle giornate tematiche contro il big business il 6 e il 7, le azioni contro gli accordi TTIP nella giornata del 9 e contro il fracking nella giornata del 10, mentre l'appuntamento finale era previsto con il corteo del 12, a COP sostanzialmente conclusa e nella cornice dei festeggiamenti per la fine dei Climate Games, delle proteste creative e sportive promosse da Climate Justice Action. Non tutto questo fitto programma si è realizzato per via proprio dello stato d'urgenza, ma il nostro racconto comincia il 29 di novembre, quando i movimenti si concentrano in Place de la République, dove era previsto uno dei cortei, nei pressi del monumento che è diventato un po' il mausoleo, il meta di pellegrinaggio dei parigini nelle giornate post-attentati. Il presidio è molto tranquillo, c'è un'atmosfera freak, ci sono quelli delle ZAD, ci sono migranti, ci sono tanti climattivisti delle ONG. La polizia impedisce al corteo però di prendere forma ed uscire dalla piazza. Ci sono dei fronteggiamenti e vengono fermati in centinaia, sono 317 i fermi confermati il primo giorno e saranno 26 le assegnazioni di dimora, quelli che noi definiremo obblighi di dimora con coprifuoco serale. A 26 persone è impedito con effetto retroattivo dal 25 novembre di partecipare a tutte le successive proteste perché hanno l'obbligo di firma e la costrizione a rimanere all'interno del proprio paese, che spesso è una banlieue limitrofa a Parigi ma comunque esterna ai confini della municipalità. Contro questi obblighi di dimora, che sono un po' una novità ma saranno in sperimentazione per i prossimi 3 mesi, visto che appunto lo stato d'emergenza è stato prolungato da 12 giorni a 90, si scagliano le proteste, cominciano i volantinaggi e ci sono dei ricorsi con presidi nei giorni successivi al Consiglio di Stato. Nei giorni successivi il panorama delle proteste si differenzia e parecchio. Da una parte l'associazionismo istituzionale, quello parzialmente interno al meccanismo della COP, che decide di archiviare il proprio programma di proteste per concentrarsi su un presidio alle ore 14 del 12 dicembre. Sarà nei pressi della Torre Eiffel, è un presidio con transenne all'ingresso, controlli di polizia e bandiere francesi. Quindi nonostante Naomi Klein parli da quel palco, abbiamo deciso di non seguire questo tipo di protesta. Sul fronte opposto c'è anticop21.org, il sito di riferimento delle proteste dei libertari, di quanti nella staffetta tra le ZAD e i movimenti urbani decidono di denunciare con più forza non soltanto il meccanismo speculativo delle COP, ma anche la dimensione di repressione interna allo stato d'urgenza e al conflitto che questo porta ai movimenti, al controllo sociale, insomma una dinamica ben lontana da quello della lotta al terrorismo e allo stragismo in particolare che ha colpito Parigi. Nel mezzo c'è la ZAC, la Zona d'Azione Climatica. Si convoca il 104, che è un centro culturale istituzionale messo a disposizione dei climattivisti, e nell'imbarazzo delle assemblee multilingue, dai toni insomma piuttosto curiosi per noi abituati ad altre consuetudini, si avvicendano workshop di formazione legale e incontri sull'energia pulita, tecniche di resistenza e iniziative insomma per rispondere in maniera anche solare agli impedimenti che vengono posti. In ogni caso, al di là delle piccole iniziative che vanno dal 7 all'11, la giornata conclusiva resta per tutti la giornata di riferimento. La ZAC si dà appuntamento in Avenue de la Grande Armée, diciamo a metà strada tra Porte Maillot e Charles de Gaulle. L'appuntamento è per le ore 12, però il permesso non arriva fino al giorno stesso. All'appello per il corteo negato del 12 dicembre, cui erano previste 200.000 persone, rispondono comunque in 20.000. Il numero è importante perché la piazza, pur essendo circondata dai mezzi di polizia e con fastidiosi filtri all'ingresso, è comunque piena. Comincia un corteo interno, il titolo è Operazione Red Lines. Ci sono 4.000 tulipani rossi, molti portano striscioni, anche soltanto un berretto, un cappotto, qualcosa che ricordi il colore rosso. Da una parte la linea rossa è quella che separa i movimenti che si collocano al di fuori del meeting dal forum invece blindato in cui 7.000 delegati cercano di trovare l'accordo. Però la linea rossa è anche quella dei 2 gradi di innalzamento globale della temperatura, quei 2 gradi che sarebbero letali anzitutto per la specie più fragile, che è proprio l'uomo, perché non dobbiamo mai dimenticare che noi ci interessiamo di clima anzitutto per per un fattore egoistico, quello per cui oggi non possiamo non prendere in mano questo tema, altrimenti da qui a un secolo le cose potrebbero cambiare seriamente, anzitutto per effetto dello scioglimento dei ghiacciai, e in picchi di frequenza ne abbiamo parlato in più di un'occasione. Così come all'interno del meeting i più agguerriti sono gli arcipelaghi, le isole, i paesi insomma che si collocano a soli pochissimi metri sul livello del mare e che sentono con più forza l'urgenza del tema, nelle piazze si incontrano invece i nord e i sud del mondo. Da Via Campesina e Confederation Paysanne parte il tentativo di aprirsi un varco. Inizialmente è concesso un corteo sul marciapiede, ma presto la cosa deborda. Ci sono una ventina di palloni giganti che richiamano proprio il filo rosso, che vengono lanciati tra la gente e che indicano in qualche misura la via da percorrere. Il corteo si prende la strada e comincia ad attraversare il centro della città in direzione prima del Trocadero e poi della Torre. Arrivati al ponte sulla Senna parte un sit-in, tutti si siedono e comincia un'improbabile assemblea in cui si alternano i toni più diversi. La cosa importante però è che il limite imposto alle mobilitazioni è stato rotto e che in 20-30.000 si marci per le vie di Parigi dicendo abbiamo bisogno di un cambio di sistema, non di un cambio di clima. E ancora, il clima di chi? Il nostro clima. La polizia si tiene a distanza, inizialmente cerca di regolare il traffico, ma lo stile della manifestazione spontanea tiene dentro quello di una comunità in movimento assolutamente variegata, ciascuno a modo suo, sedendosi, bloccando, con coreografie, scenografie, con volantini e cori di protesta, racconta il suo no all'accordo che viene e il suo bisogno, insomma, di spingere collettivamente per un cambio di rotta radicale. Il fiume umano fa da ponte con la manifestazione istituzionale che si tiene dall'altra parte della torre a circa 500 metri di distanza, mentre in molti ci si prepara all'ultimo appuntamento, quello delle ore 17, quando a Belleville il circuito libertario convoca un ultimo corteo. Lì l'atmosfera è diversa, nonostante la samba band provi a mantenere, come dire, un'atmosfera festosa e una partecipazione alla protesta, però la polizia non gradisce la cosa perché dopo le manifestazioni concesse non devono esserci altri momenti, e così ancora una volta questa manifestazione di un migliaio di persone viene bloccata. Lo abbiamo anche raccontato dai microfoni di Radio Onda d'Urto a più voci. La cosa importante però è che i divieti imposti dallo stato d'urgenza sono stati rotti e uno squarcio si è aperto nel silenzio a reti unificate della COP21. Perché non funziona? Ci chiedevamo in apertura e adesso proviamo a rispondere anche a questa domanda. Quello parigino sul tema del climate change era probabilmente l'appuntamento più atteso dopo il fallimento della COP15 di Copenaghen di 6 anni fa e a 5 anni dalla scadenza del protocollo di Kyoto firmato nel 1997. E proprio per comprendere la pericolosità di politiche inadeguate dobbiamo ripartire da Kyoto, che non è stato un fallimento, come spesso i movimenti hanno detto, ma ha funzionato molto bene. Il problema è che forse gli obiettivi erano differenti da quelli dichiarati. Ad esclusione del solo anno 2011, quando la flessione dell'economia della locomotiva cinese per effetto della crisi provocò un abbattimento percentuale della CO2 immessa nell'atmosfera, in tutti questi anni non si è riusciti a mettere la parola stop all'innalzamento delle emissioni climalteranti in atmosfera. Quello che invece si è fatto attraverso il trasferimento tecnologico, la promozione di politiche ed economie coloniali dai nord al sud del mondo, attraverso la scommessa su meccanismi finanziari, attraverso i derivati sui mercati carbonio, è stato quello di cercare di dare nuovi sbocchi ad un'economia asfittica. Quindi non si può parlare di un fallimento pieno delle COP, ma semplicemente di una loro utilità in ambito economico-finanziario e non in ambito invece di lotta ai cambiamenti climatici. Dagli obiettivi annunciati, quelli di un cambio di rotta radicale in direzione di uno stile di vita di produzione, distribuzione e consumo effettivamente sostenibili, per usare una brutta parola, si passa anche in questo caso ad una ratifica di impegni per adattarsi al cambiamento climatico ormai considerato in atto. È stato sì sconfitto il negazionismo, quello di quegli scienziati o politici che oggi in posizione assolutamente marginale insistono sulla assenza di una relazione tra attività umane e cambiamento del clima. Si affaccia però un nuovo negazionismo, quello del fatto sociale, quello di chi utilizza proprio i documenti delle COP per negare il profondo legame tra politiche economiche e finanziarie e iniquità degli stili di vita, e quindi tra cambiamento climatico, impatti sul territorio e democrazia. Lo stato d'urgenza, il meccanismo chiuso delle COP, l'assenza di una partecipazione possibile a questi meeting indica ancora una volta che l'occasione è mancata. Se pensiamo anche soltanto al nostro paese, l'aver puntato tutto attraverso il meccanismo dello Sblocca Italia sulle estrazioni di gas naturale, petrolio, sui pozzi e gli stoccaggi, quindi sul paese e la sua dorsale appenninica come una lunga condotta che porti gli stoccaggi della pianura padana, significa investire per altri 50 anni su quegli stessi combustibili fossili che la COP21 mette all'indice. E questo è il motivo per cui una trasmissione di montagna come Picchi di Frequenza si concede una pausa per puntare il dito su la COP21 e su quanti insomma hanno festeggiato in maniera acritica questo appuntamento. Noi da gennaio ripartiamo col consueto palinsesto, però sappiamo anche che l'amore per la montagna, per il territorio, per l'ambiente alpino significa anzitutto rispetto per la vita in tutte le sue manifestazioni, perché non vorremmo trovarci di fronte ai grandi annunci delle COP per una lotta senza quartiere ai combustibili fossili, a combattere da una parte con le lobby di questo impero decadente e dall'altra con la ripresa di spinta di un'economia nucleare, di nuove dighe impattanti, di progetti energivori e di grandi infrastrutture. Questo è lo stile di Picchi di Frequenza, questa è la sensibilità con cui ci risentiamo il prossimo anno. Ora però vi lascio come sempre con la nostra recensione e con un saluto a tutti gli ascoltatori per queste prime 15 puntate passate insieme nell'anno 2015. Jean Servetaz, guida alpina di Chamonix, non ha dubbi sul futuro di suo figlio. In famiglia ce n'è già uno che rischia la pelle. Pierre farà l'albergatore. E Pierre obbedisce con la morte nel cuore. Ma in un giorno tragico, per strappare alla montagna il corpo del padre folgorato sui Dru in una spedizione, Pierre tenta l'impossibile e cade. Comincia così il travagliato itinerario del ragazzo, ferito gravissimamente in montagna, per guarire non solo nel corpo ma anche nello spirito. Una lunga strada che con l'aiuto degli amici, ma soprattutto di una tenace e divorante passione per la montagna, lo porterà a scoprire e realizzare se stesso e a tornare a scalare, quando tutto sembrava perso. Alla storia che offre momenti di grande tensione drammatica fa da cornice il Monte Bianco, ora crudele divoratore di uomini e cordate, ora luogo incantato immerso nei ghiacci e nella neve. La vicenda si svolge nel 1925. Oggi il rapporto dell'uomo con la montagna è cambiato totalmente ed il libro, scritto in maniera fortemente realistica e dettagliata, sembra ormai più un romanzo storico che ricostruisce tuttavia in maniera profonda e straziante la realtà della montagna e della Val d'Aosta. Primo di cordata è un libro di Roger Frison Roche, edito dalla casa editrice Vivalda nella bella collana I Licheni. L'autore nacque a Parigi nel 1906, ma a 17 anni lasciò la capitale francese per trasferirsi a Chamonix, dove proprio negli anni di ambientazione del libro, gli anni 30 del Novecento, divenne guida alpina. Anche questo speciale su cambiamenti climatici e COP21 per la 15ª puntata di Picchi di Frequenza volge al termine. Io come sempre vi invito a idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, all'account @abuzzo3 sul social network azzurro o alla pagina Picchi di Frequenza su quello blu. Per chi si fosse perso qualche puntata, non lo diciamo mai abbastanza, ma l'archivio completo in streaming e download della trasmissione è disponibile cercando Picchi di Frequenza su spreaker.com. Altrimenti, come sempre, ci risentiamo questa volta nel 2016, il venerdì alle ore 20, con Picchi di Frequenza dalle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.